Capitolo 10. Hanno forme bizzarre. Niente a che vedere con i classici bastoncini. Sono ferri di cavallo, saette, piccole spirali. Caratteri fucsia di un alfabeto alieno, sparsi su un fondo azzurro pallido. Bogdanov solleva il viso dal microscopio. «Siete sicuro che si tratti di Mycobacterium tuberculosis?» Vlados indica i vetrini che ha preparato, schierati nella scatola come filari. «La colorazione di Ziel Nielsen è positiva», risponde, «ma per avere la certezza servono gli esami culturali. Se fossero normali i bacilli di Koch, ci vorrebbero settimane, ma questi si moltiplicano molto più veloci e abbiamo già le prime risposte». Bogdanov ruota lo sgabello su cui sta seduto e attende che l'altro prosegua. Oltre alla forma e al tempo di riproduzione, c'è un'ulteriore stranezza. La virulenza dei batteri è molto attenuata. I topi inoculati non presentano focolai di malattia. E anche la ragazza, a parte l'evidente astenia, non ha sintomi di tubercolosi. È una portatrice sana di microbatteri mai visti. «Le radiografie?» domanda il direttore. «Nessuna lesione polmonare. Per certi aspetti sembrerebbe tubercolosi latente. Per altri si direbbe attiva e per altri ancora non somiglia a nessuna delle due». Bogdanov resta in silenzio. Quella sfida lo affascina. Un elemento sconosciuto è giunto a turbare le loro certezze. Ora li attende un periodo eccitante, fatto di disordini e divergenze, di contraddizioni e aggiustamenti, finché il sistema non troverà una nuova stabilità. Crisi, differenziazione, equilibrio. La dialettica, inversione tectologica che muove ogni progresso. «Avevate mai visto niente del genere?» lo incalza il giovane medico. «No», risponde lui, dopo un istante. «Potrebbe trattarsi di una nuova specie di tubercolosi». «Potrebbe», ammette Vlados. «Ma tra i ceppi che già conosciamo, le differenze sono molto più ridotte. Lo stesso Koch pensava che il medesimo bacillo provocasse la malattia nell'uomo, negli uccelli e nei bovini. Il nostro caso, invece...» Il giovane medico si interrompe, le mani giunte appoggiate sulle labbra, come per trattenere l'entusiasmo. «Pensate al vaccino di Calmette. Ci sono voluti 13 anni per ottenere un micobatterio così attenuato. 230 passaggi culturali e alla fine si è rivelato meno efficace del previsto». Vlados indica ancora il suo piccolo esercito di vetrini. «Qui invece abbiamo un bacillo attenuato già bell'e pronto, che non provoca la malattia, ma potrebbe stimolare una risposta immunitaria». Bogdanov alza le mani, come per arrendersi all'euforia del collega, oppure per contenerla. Un'anomalia del genere è un dono insperato per un giovane ematologo, l'occasione di un'intera carriera. Per lui invece è un enigma, un meraviglioso arcano. «Vi aspetta una lunga ricerca, annali delle riviste mediche, archivi degli ospedali, almeno quelli di Mosca». «Il mio lavoro qui...» finge di protestare l'altro. «Lo assegnerò a qualcun altro», taglia corto Bogdanov. «A meno che voi non...» «Sono più che disponibile», si affretta a dire Vlados. Poi si trattiene, trapela l'imbarazzo. «Ma è un giovane brillante, se la caverà». «Direttore, io credo che, viste le circostanze...» temporeggia. Poi riprende. «Sia necessaria la massima riservatezza». «Si capisce», concede Bogdanov. «Non c'è alcuna fretta di divulgare la notizia». L'altro appare sollevato. Ironia delle circostanze. Vlados lo ritiene un mezzo stregone, direttore dell'istituto per puro caso e allergico alla disciplina di partito. Quale contrappasso per lui dover chiedere la sua complicità. «Ora abbiamo un buon motivo per ricoverare la ragazza», dice Bogdanov, «e dovremo compilare una cartella clinica. Ma con quali dati?» Resta in attesa della risposta, ridendo sotto i baffi. «La ragazza non ha documenti?» si allarma Vlados. «Ha il libretto di lavoro e il certificato di nascita di un certo Liev Koldomasov», lo informa Bogdanov, «deceduto, a quanto ci ha detto. Li ha rubati». «Questo è decisamente un problema», commenta Vlados con ansia. «Abbiamo bisogno di tempo, la ragazza deve restare qui. Sotto la nostra cura, in fondo...» aggiunge dopo qualche secondo, per raccogliere il coraggio. con i vestiti che aveva addosso non sembrava proprio una ragazza. Forse possiamo aspettare a fare la denuncia. Non credo rappresenti una minaccia. Bogdanov approva. Però, caro ragazzo, quanto tempo ti ci è voluto per dirlo? Occorre mantenere l'identità fasulla di Danny, almeno per il tempo necessario agli accertamenti. Il direttore lascia che il silenzio sancisca la loro alleanza. Nella corsa per il potere che occupa la vita di tanti compagni, Vlados ha puntato su due cavalli: la propria conoscenza del sangue umano e l'obbedienza al partito. Ora, non potendo tenere l'una senza perdere l'altra, ha scelto la prima, la scienza invece della fede. Bogdanov non può che esserne felice. «Non perdiamo tempo», dice, alzandosi dallo sgabello. «A voi le ricerche. Io mi occuperò del ricovero. Tubercolosi latente, per quanto ne sappiamo fin qui. Al lavoro!» Punta la porta, ma capisce che Vlados ha qualcosa sul gozzo. Allora si gira e resta in ascolto. «Non credete che dovremmo rintracciare i parenti della ragazza?» domanda il collega, «per confrontare le analisi. Il bacillo potrebbe avere una provenienza geografica o ambientale specifica». Sì, certo. Niente di più corretto. La ragazza dice di essere cresciuta in un orfanotrofio, forse a Baku. La madre è morta di malattia quando lei era piccola. Potrebbe trattarsi della stessa malattia, ipotizza Vlados. Forse ha un'incubazione lunga o una fase latente. La madre potrebbe averla trasmessa anche ad altri. Torna a guardare Bogdanov, sempre più determinato a non lasciarsi sfuggire l'occasione. Nessun parente in vita? Fratelli? Sorelle? L'ironia della sorte appare a Bogdanov in tutta la sua evidenza. È come accorgersi che fino a quel momento ha osservato il dettaglio di un quadro più grande. «Forse il padre», bofonchia. «Non sappiamo se vivo, ma l'ho conosciuto molti anni fa. Un vecchio compagno, di cui ho perso le tracce». Vlados non cede di un millimetro, saldo sul posto come una sentinella dell'immediato futuro. «Suggerisco di cercarlo, allora», dice con una fermezza che fino ad ora aveva tenuto da parte. I ruoli si sono invertiti. Vlados ha appena assegnato un compito al direttore dell'istituto, un compito che spetta soltanto a lui.